Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ore, ore, cara Deborah, ore, come stai? Sto molto bene, guarda, mi sto preparando, mi manca solo di truccarmi, vestirmi un po' carina e venire lì in radio, anzi, ma Deborah, ma non ti devi preoccupare, ma vieni, metti la prima cosa che trovi nell'armadio, sei sempre bellissima, non devi stare a preoccuparti. Sì, certo. Ti aspettiamo però, ma... non tardare, guarda che alle 3 noi partiamo, no, quindi... Io sono lì presto. Ecco, non possiamo aspettare perché, sai, col digitale lei in sci, bisogna essere precisi, noi... Dalle 15 alle 17 sì. Digital Round Table di Investire Informati. Abbiamo scomodato, bene, come abbiamo annunciato già in questi giorni, dei nomi di esperti, di operatori, professionisti del risparmio, docenti universitari. Ci saranno Lorenzo Alfieri, Alessandro Tentori, Alessandro Gandolfi, Edoardo Fontana Rava e poi Fabio Galli, Maurizio Bufi, Anna Maria Lusardi, insomma un parterre di tutto rispetto e al quale rivolgeremo in tanti modi diversi la domanda: ma che facciamo con i nostri risparmi? Come facciamo a orientarci in questo momento post-Covid? Speriamo post, perché sai che qui si continua ad essere tutti timorosi di recrudescenze, seconde ondate, focolaie, insomma. Allora, anche così, cerchiamo anche di ragionare un po' del nostro denaro. Lo facciamo dalle 15 alle 17, siete ancora in tempo a registrarvi. www.radio24.it, andate dalla prima pagina proprio che vi appare, dalla home page, andate sulla sezione iniziative speciali, la trovate in alto proprio nella home page, così potete registrarvi. Noi alle 15 cominciamo, Deborah ti aspettiamo. Invece adesso, per ingannare l'attesa, cosa vorremmo fare questa mattina? Guarda, parliamo sempre dei soldi degli italiani, ma per migliaia di italiani è stato un weekend difficile, perché molti hanno dovuto affrontare la situazione del blocco delle carte di pagamento Sisal Pay e Soldo, perché queste società hanno emesso delle carte di pagamento con il supporto di Wirecard, la società fintech tedesca che è praticamente sull'orlo del fallimento. Per la verità era così almeno fino a venerdì scorso, perché le autorità di vigilanza, appunto, anzi una società di revisione dei conti, ha riscontrato un ammanco di bilancio di almeno 2 miliardi, ma pare che la società riesca a scongiurare la bancarotta, tanto che in borsa ha ripreso a correre e ha recuperato un po' del terreno perso nelle ultime settimane. Ma il punto è che tutte le altre autorità in altri paesi d'Europa, in particolar modo l'autorità di controllo sui mercati britannica, ha venerdì deciso di sospendere, di disattivare tutte le carte in circolazione. E questo ha significato per oltre 300.000 clienti, anche italiani, l'impossibilità di utilizzare queste carte. Ieri questa situazione è letteralmente esplosa. Nel contempo si sta anche risolvendo, perché adesso i gruppi interessati, per l'appunto, stanno riattivando l'operatività di queste carte, ma tanto è bastato chiaramente per mandare in tilt molte famiglie. Siamo andati anche a controllare sulla pagina Facebook del gruppo di Sisal Pay e abbiamo notato che effettivamente i motivi di preoccupazione ci stavano tutti, e quindi oggi richiariremo un po' i termini della questione, che per fortuna è in via di risoluzione, ma chiaramente la prenderemo anche come pretesto per dare raccomandazioni agli ascoltatori. Bisogna diversificare, Mauro, non solo i nostri risparmi, ma anche la liquidità. Esatto. Perché effettivamente, se capisco bene tutto questo resoconto che mi hai fatto, Deborah, la sostanza è che qualcuno si è trovato, avendo questa carta su cui c'erano effettivamente dei soldi che usava normalmente, ma non poteva più pagare alcunché, perché era come se la carta non funzionasse bloccate. Più, insomma, se fosse stata bloccata, se fosse scomparsa. E naturalmente, ecco, bene, perché già l'operatività viene ripristinata, però ne parleremo anche per capire come può essere, come diceva appunto Deborah, come può essere successo. Perché da questa società tedesca ci siamo finiti in mezzo noi, appunto, con le nostre carte di pagamento. E allora, se magari siete stati così colpiti da questa disavventura, il numero verde è 800240024. Se volete anche naturalmente chiederci delle altre cose al proposito, ne parleremo dalle 11.30 in avanti. Ci sono anche naturalmente i messaggi SMS e i messaggi via WhatsApp. 349-238-6666 è il numero anche per messaggi vocali. Oh, naturalmente ci sarà, però immagino, cara Deborah, un po' di spazio per un giornale radio del risparmio, perché io ho delle cosucce anche da raccontarti nel frattempo. Sono certa che la prima notizia è tutta tua, guarda, la vedo già lì, pronta ad uscire dalla tua boccuccia delicata. Via! E allora andiamo. Amore, i soldi. Il martedì è da tempo, da anni, il giorno del condominio sul Sole 24 Ore, cara Deborah. Si parla spesso il martedì del condominio. Oh, naturalmente c'è sempre poi il quotidiano del condominio, che è digitale, quello tutti i giorni, per quel supporto tutti i giorni è il giorno del condominio. Ma da oggi te ne voglio parlare perché nelle pagine Norme e Tributi, che vanno lette sempre religiosamente, anche se c'è la Digital Round Table di Due di Denari, di Investire Informati, si parla dell'assemblea condominiale. Sì, l'assemblea condominiale, perché sai che c'è un pasticcio con queste misure di distanziamento, lockdown, quarantena, insomma chiamale come vuoi, le assemblee non si sono potute fare. Adesso a certe condizioni si possono anche svolgere, però l'idea migliore sarebbe quella di poterle fare tutte, diciamo, da remoto. In realtà, tutte da remoto, il codice civile non lo consente, avremmo bisogno di una modifica normativa, dove ho imparato tutte queste cose perché ho letto Norme e Tributi, Alessandro Maria Colombo me le ha spiegate a pagina 29 del Sole 24 Ore di oggi. Si sta facendo strada l'ipotesi dell'assemblea ibrida, cioè c'è l'amministratore, il presidente dell'assemblea, il segretario e poi tutti gli altri connessi con una delle tante piattaforme disponibili. È come la Digital Round Table. Noi oggi saremo lì con i nostri ospiti, ma da remoto ci seguiranno. Tra l'altro si sono accreditate 1500 persone fino a questo momento, quindi potrebbe essere, insomma, una simulazione di assemblea di condominio se la facessero con queste modalità. Che ne pensi? 1500 persone sarebbe già un condominio, di tutto rispetto. Noi abbiamo ancora spazio per la Digital Round Table, non so per le assemblee condominiali. Questo però è una delle possibili soluzioni che stanno emergendo per ovviare all'impossibilità di celebrare le assemblee. Allora, assemblee di condominio che saranno quanto mai importanti prossimamente per dare il via libera a lavori di efficientamento energetico sugli immobili, perché generalmente se riguardano il condominio sono piuttosto impegnativi e quindi hanno bisogno di chiaramente un pronunciamento assembleare. Perché dico questo? Perché domani è una giornata importante, non solo parte il prossimo trimestre per i mercati finanziari, peraltro oggi per la Digital Roundtable, Mauro, avremo anche modo di parlare della chiusura dell'ultimo trimestre, visto che è il 30 giugno e ci sono dei numeri molto interessanti da commentare. Ma tornando a noi, perché parliamo appunto di questa data di domani? Perché parte la possibilità di fare richiesta del super bonus al 110% per interventi appunto di riqualificazione degli immobili particolarmente impegnativi, anche se mi risulta, ma correggimi se sbaglio, queste cose tu le segui molto meglio di me, ci sono ancora delle possibilità di apportare delle modifiche, perché credo che il provvedimento non sia stato definitivamente convertito dal Parlamento. Attende ancora il via libera definitivo, cioè la definitiva conversione in legge, e questo fa sì che ancora qualcosa potrebbe cambiare. Noi, guarda, magari aspettiamo qualche giorno per tornare sul 110%, però lo faremo prestissimo. Un'altra cosa che però parte da domani e che è interessante è la riduzione del cuneo fiscale in busta paga, insomma fino a una certa soglia di reddito, i 40.000 euro all'incirca, ci sono un po' più di soldi in busta paga. Questo è in estrema sintesi. Domani vi diamo il dettaglio, naturalmente come sempre con esperti di valore mondiale. E poi vi ricordo che da domani la soglia per i pagamenti in contanti scende dai 3.000 ai 2.000 euro. O come direbbe sempre Nicola Forte, che sul punto ci corregge sempre, cara Debora, Nicola Forte cosa ci dice, dice? E non dice 2.000, dice 1.999,99, perché già al 2.000 stai fuori, stai oltre la soglia. Quindi attenzione con i trasferimenti in denaro, non è che non si possono più fare, si possono fare, ma si entra nel novero di operazioni che sono soggette alla vigilanza. Anche se uno spezza, per dire, il trasferimento in una serie di importi inferiori, perché, come dire, il fisco e la vigilanza non hanno proprio l'anello al naso, cara Debora. Allora, c'è un'altra notizia che arriva da un contesto europeo che ci è piaciuta molto, perché è abbastanza e molto in linea con le raccomandazioni che diamo sempre noi. Anzi, noi non diamo raccomandazioni, così proviamo un po' a cercare di analizzare con le esperienze dei nostri ascoltatori quelli che sono i comportamenti di risparmio e di investimento più diffusi, per cercare di capire se siamo pronti ad affrontare appunto questi scenari di mercato così complessi. Tutto questo per arrivare a dirvi che c'è una campagna europea molto interessante che è promossa dall'Organizzazione Europea dei Consumatori, la BUC. Questa è un'organizzazione che rappresenta gli interessi dei consumatori europei nei processi decisionali delle istituzioni dell'Unione Europea, e quando questi signori fanno delle campagne, dei sondaggi, delle analisi, poi chiaramente i risultati vengono proposti agli organismi europei per cercare di capire se è il caso di intervenire dal punto di vista legislativo in qualche campo. L'ultima campagna si chiama The Price of Bad Advice, il prezzo dei cattivi consigli. È una campagna che intanto durerà per tutto quest'anno, raccoglie e analizza i maggiori scandali finanziari e tutte quelle che sono state le conseguenze sui cittadini. Per quanto riguarda l'Italia, fra i casi citati chiaramente ci sono quello della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, e quindi sarà interessante verificare poi alla fine dell'anno effettivamente quale sarà il quadro complessivo emerso dall'Europa e quali poi saranno i suggerimenti che verranno rivolti alla Commissione Europea per intervenire anche nei confronti degli intermediari finanziari che generalmente spingono per certi prodotti di investimento, a volte non in coerenza con gli obiettivi appunto dei consumatori e dei risparmiatori finali. E allora, a proposito di cattivi consigli, cattivissimi consigli per chiudere, un falso sito, un sms e una telefonata, tutto naturalmente falso, ma è una frode, è un phishing particolarmente evoluto che sta interessando i clienti di BNL, la quale BNL avverte che in questi giorni appunto un sms, un messaggio di posta elettronica raggiunge i correntisti, contiene l'invito ad aggiornare la propria scheda anagrafica e anticipa una chiamata del servizio di assistenza ai clienti, che dovrebbe poi confermare appunto che questa compilazione è andata a buon fine. È tutto falso. Si arriva a una pagina web che ha lo sfondo con il logo di BNL, un aspetto grafico che ricorda, insomma, somiglia abbastanza, ma in realtà è tutto un phishing per ovviamente poter accedere ai numeri, alle posizioni dei conti correnti e anche degli investimenti dei clienti. Quindi attenzione se siete correntisti BNL a questa truffa particolarmente articolata. Questo è un serpente corallo veramente, verrebbe da dire, da primato, cara Debora, ma temo di fargli un complimento. Allora, andiamo con Dillo a due di denari, perché poi di questioni, come dire, di educazione finanziaria e consapevolezza finanziaria dobbiamo parlare con una ospite di valore mondiale, quindi Dillo a due di denari. Dillo a due di denari. A me questa del troll mi pare una struttura. Anche perché gli assembramenti si verificano quando si ritirano i bagagli, mica quando metti il trolley dentro in aereo. Quelli in aereo sono quelle le persone, punto fine. Il casino è quando le ritiri le valigie. E ti pareva che con le nuove regole non c'era qualcuno sempre i soliti che guadagnava e qualcuno sempre i soliti che ci perdeva? Allora i passeggeri degli aerei dovranno arrangiarsi e fare la solita corsa a ostacoli, mentre invece le compagnie potranno viaggiare a pieno carico. Certo, Debora. Se le compagnie aeree adottassero il sistema di chiamare i passeggeri in ordine di biglietto di posizione, non si risolverebbe il problema? Certo, Debora, questa vicenda dei trolley ha scatenato, come dire, più di una reazione, insomma, questa vicenda sì, di viaggiare. Infatti. No, stavo ragionando sull'ultimo suggerimento dato dall'ascoltatrice. Sì, tutto interessante quello che propongono gli ascoltatori, però attenzione che ogni miglioramento dei servizi proposti poi finiscono dritti sul costo del biglietto e non sono tempi appunto per spendere di più. Ma guarda un po', non lo so, insomma, come la fai la sbagli? È tempo di essere, sai cosa Deborah? È tempo di essere avveduti. Allora, io ti dico, sì, rivolgiamoci a chi sa, a chi se ne occupa, una educatrice finanziaria quasi mi verrebbe da dire, ma forse in questo modo le manco di rispetto. Glielo chiediamo subito dopo l'apposita sigla che ci introduce al primo tema della giornata. E sono felice di dare il bentornato a Due Denari a Magda Bianco, responsabile del Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria della Banca d'Italia. Bentornata a Due Denari, è sempre un piacere, dottoressa Bianco. Buongiorno, il piacere è mio. Deborah, cosa possiamo chiedere? Sì. Che... No, guarda, mi incuriosiva subito la questione della carica della dottoressa Bianco, perché va segnalato che questo dipartimento insieme alla Banca d'Italia è stato istituito da qualche mese, quindi sembra una novità assolutamente interessante. Poi la domanda è naturalmente riguarda i risultati dell'indagine condotta dalla Banca d'Italia nel 2020 sull'alfabetizzazione finanziaria degli italiani. Ormai una rilevazione che Banca Italia conduce da qualche anno, è partita dal 2017. Ancora una volta quest'anno non credo che i risultati siano, per quello che ci riguarda come italiani, particolarmente brillanti, però direi che ci facciamo raccontare il resoconto dalla dottoressa Bianco, facendole in primo luogo spiegare proprio questa novità di questo dipartimento, se possibile. Dottoressa Bianco, eccoci qua. Ma certo, con davvero grande piacere. E sì, in realtà qualche giorno fa, il 22 giugno, è nato questo nuovo dipartimento che si chiama appunto Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria. Nasce dal servizio che si occupava in parte di questi temi, ma l'obiettivo della Banca d'Italia è di rafforzare moltissimo l'azione nei confronti sia delle banche e quindi assicurare una vigilanza sui profili di correttezza e trasparenza sulle banche più intensa, sia assicurare una tutela individuale alle persone più forte attraverso l'arbitro bancario, attraverso gli esposti, le segnalazioni che le persone ci possono mandare, e sia ancora di rafforzare le capacità dei singoli, degli individui di autotutelarsi, di essere interlocutori più avveduti del mondo bancario. E quindi questa è la sfida che ci attende per i prossimi anni. L'indagine, e dottoressa Bianco, invece. L'indagine. Allora, l'indagine, come diceva giustamente lei, è stata realizzata nel 2020 ed è la seconda in collaborazione con l'OCSE, che ci consente quindi di fare confronti con gli altri paesi. La prima notazione, come anticipato, non è tanto positiva. Gli italiani, in termini di conoscenze di base in termini di alfabetizzazione finanziaria, di comportamenti, e cioè di abitudini a tenere un budget, a pianificare, e in termini di attitudini, cioè di orientamento al risparmio, a guardare al futuro, non sono messi tanto bene nel confronto internazionale, siamo nella parte bassa della classifica. Però abbiamo qualche qualificazione da fare. Intanto le conoscenze di base rispetto al 2017 sono un pochino migliorate. È come se ci fosse un pochino più di consapevolezza e di conoscenza di base. I comportamenti purtroppo sono lievemente appena peggiorati, e forse qua anche il contesto di questi ultimi anni, una situazione di difficoltà generalizzata, di crisi, potrebbe essere in parte responsabile di questo. Per quanto riguarda le attitudini, cioè l'orientamento al medio-lungo periodo, al risparmio, all'attenzione all'indebitamento, qua noi siamo in media con l'OCSE, lo eravamo, continuiamo ad esserlo, siamo un po' un popolo di risparmiatori e attenti a evitare di indebitarci troppo. Un paio di altri aspetti positivi, di notazioni positive, sono: uno, che siamo molto consapevoli, più degli altri paesi, tendiamo anzi a sottovalutarci, a pensare che sappiamo meno di quello che sappiamo, e questo, quando si parla di educazione finanziaria, è un bene, perché ci evita di fare errori, errori che sono tipici di chi è eccessivamente confidente in se stesso. L'altra cosa relativamente positiva è relativa al concetto di resilienza. L'OCSE per la prima volta ha provato a misurare questo concetto, che è molto importante in un periodo difficile come quello di adesso, che si associa alla capacità di resistere in situazioni complesse. Ecco, rispetto a questo indicatore siamo in linea con gli altri paesi e quindi facciamo attenzione ai nostri acquisti, teniamo conto degli impegni finanziari che abbiamo preso per evitare di prenderne troppi e di non rispettarli. Quindi insomma, luci e ombre. C'è una cosa che mi ha incuriosito, Deborah, in questa indagine presentata appunto da Banca d'Italia. La cultura finanziaria, le competenze finanziarie, pardon, crescono fino ai 45 anni e poi decrescono. E questo mi preoccupa anche un po', dottoressa Bianco. Quindi, insomma, abbiamo... Siamo sul precipizio, io e te, insomma. Io in particolare sto su una china così inesorabilmente discendente. No, ma scherzi a parte, significa che quando si è anche in un'età un po' più delicata, perché magari bisogna cominciare a pianificare effettivamente il ritiro dal lavoro, quando sappiamo che perdere il lavoro dopo una certa età è un dramma totale, lo è sempre, ma diventa irrecuperabile. Ecco, il fatto che le conoscenze finanziarie diminuiscano, che cosa significa in concreto? Cioè che siamo più vulnerabili, o avete notato questo, questa vulnerabilità maggiore? Assolutamente, diciamo che questo è un fenomeno, questo essere associata, la cultura finanziaria essere associata in modo positivo con l'età fino a un certo punto e poi però con una relazione negativa è una cosa che condividiamo con gli altri paesi, però questo non significa che non ci faccia preoccupare di meno, perché da un lato in senso positivo spesso le persone più grandi, gli anziani sono quelle dove si trova una quota significativa di ricchezza finanziaria del paese e quindi sarebbe importante che queste persone avessero maggiori competenze per gestire bene queste finanze. Dall'altro, l'età più avanzata può associarsi invece a un momento di maggiore fragilità e quindi avere minori competenze, essere più in difficoltà a gestire anche aspetti semplici della vita finanziaria, economica, e ha un impatto importante sul benessere delle persone. Questo ci dice che questa è una categoria su cui dobbiamo lavorare con grande attenzione, con interventi dedicati, facendo attenzione a quali sono gli strumenti con cui è più facile arrivare a queste persone. E questo mi colpisce, Deborah, perché abbiamo parlato e parliamo sempre dell'educazione finanziaria rivolta ai giovani, giustamente imparare a gestire i soldi ci dicono sempre meglio cominciare da piccoli, però appunto forse abbiamo bisogno di curare un pochino anche i diversamente giovani, non offendiamo alcuno perché per carità 45 anni una persona è assolutamente giovane e anche oltre naturalmente è assolutamente giovane, dottoressa Bianco, penso che percorsi, lei concordi. Percorsi personalizzati sostanzialmente l'educazione finanziaria, ma credo che già molte istituzioni la pensino in questa maniera e propongano iniziative sul territorio anche molto specializzate a seconda del segmento di utenza a cui le iniziative sono rivolte. Magda Bianco. Sì, esatto, è proprio così. Per gli adulti dobbiamo lavorare, credo, su due dimensioni. Una è quella trasversale, orizzontale, la sensibilizzazione di tutti, perché appunto abbiamo dei livelli molto bassi e qua abbiamo bisogno dei mezzi di comunicazione di massa, abbiamo bisogno di iniziative grandi, però poi per affondare, per lasciare traccia sui comportamenti abbiamo bisogno di rivolgerci alle singole categorie per capirne le vere esigenze, le vere peculiarità. Si sta in parte facendo. Lo stiamo facendo noi come Banca d'Italia, abbiamo delle iniziative per esempio dedicate al mondo delle donne, al mondo del lavoro, al mondo dei migranti, lo stiamo facendo con il Comitato per l'Educazione Finanziaria. Il mese dell'educazione finanziaria di ottobre sarà in parte costruito così, cioè le tante iniziative che vengono proposte sul territorio sono tipicamente destinate a gruppi di persone, a categorie specifiche e questo aiuta a finalizzare appunto l'intervento, l'occasione alle esigenze delle persone. Allora ringraziamo Magda Bianco, lo ripeto la carica che è importante, abbiamo capito, responsabile Dipartimento Tutela della Clientela e Educazione Finanziaria in Banca d'Italia. Grazie a Magda Bianco e adesso cara Deborah, con un pochino di ritardo è il momento delle borse. Chiedo scusa, io ho comprato le birenzine e ci ho guadagnato un sacco, grazie Manera. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Due di Denari. Ecco il motivo per cui sono migliori i soldi in contanti. Sempre. Usate il contante, altro che carte, non carte, questo, quell'altro. Contante vi fa risparmiare, l'accettano tutti, è carta diretta, è pagamento diretto e vi fanno lo sconto. Non caricate le carte prepagate, cazzi, lazzi vari, usate il contante. C'era da scommettere, Mauro, che finisse così. Per la verità, beh, già da ieri vedevo che su qualche blog serpeggiavano commenti di questo tipo. Già, noi siamo, come dire, un po' refrattari, come dare loro torto. Noi italiani, sì, noi siamo, intendo dire. Si, sì, sa che abbiamo, sì, un utilizzo inferiore a quello della media europea, appunto per strumenti di pagamento, come dire, non che, diversi dal contante. Ecco, noi continuiamo ad avere un grande slancio nei confronti del contante, come forse ci potrà confermare anche il nostro esperto naturalmente di valore mondiale. Come sempre qui a Due di Denari diamo il benvenuto a Marco Crotta, esperto di blockchain per consumerismo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. A Due di Denari. Buongiorno. Allora, dobbiamo spiegare questa vicenda di Wirecard, che ha, come dire, messo molto in ambasce i possessori di alcune carte. Aiutami, Deborah, a ricordare quali erano le SisalPay e Soldo, le dico carte, bene? Le SisalPay e Soldo, esatto. Tra l'altro, quelle di Soldo sono un po' particolari perché sono carte aziendali, carte che permettono di acquistare il carburante, sono molto utilizzate soprattutto da camionisti, persone che hanno bisogno appunto di circolare, quindi è chiaro che una situazione problematica che si verifica in un fine settimana, come è successo in questo caso, quando con la decisione dell'autorità di controllo sui mercati inglese, la FCA, di bloccare tutte le carte appunto supportate dai sistemi di Wirecard, quindi in Italia per l'appunto le carte SisalPay e Soldo, è chiaro appunto che è stata una situazione molto problematica. Si parla addirittura di 325.000 carte di debito emesse in Italia da Wirecard che sono state bloccate, ed è stata una situazione che ha riguardato però in particolar modo SisalPay, che sta sistemando la situazione. Credo che tra oggi e domani tutte le carte dovranno tornare ad essere di nuovo totalmente nella disponibilità dei diretti interessati, dei legittimi proprietari e sottoscrittori, ma che tutti hanno passato appunto un weekend molto problematico. E quindi con Marco Crotta vorremmo un po' ricostruire questa situazione, soprattutto per capire perché il caso della possibile bancarotta della società tedesca è arrivato dritto a noi, Crotta. Allora, la storia è un po' lunga, da quanto posso prenderla, diciamo, indietro senza arrivare ad Adamo ed Eva. Diciamo che il Wirecard fondamentalmente che cos'è innanzitutto? È un payment processor, cioè è un'azienda che si mette tra l'acquisto che facciamo online e il merchant che poi alla fine ci fa la spedizione. Il suo lavoro quindi è togliere dell'incombenza al merchant, che non può essere in contatto con tutte le banche del mondo, tutti gli emissari di tutte le carte di credito, fa fare il lavoro a Wirecard che gli garantisce fondamentalmente l'arrivo dei soldi dell'acquisto che facciamo online, da cui si trattiene una fee, diciamo, per il rischio. Il suo lavoro è quello di fare appunto quasi un po' come se fosse una cassa di compensazione che garantisce la liquidità che circola, la liquidazione della circolazione della liquidità. Esattamente. Prego. Ora, il problema è la storia, perché Wirecard nasce, diciamo, oramai ha 15 anni di vita, è nata appunto per i pagamenti online di siti, in particolare siti di relative alle scommesse, con cui ho avuto un primo scandalo e via dicendo. Nasce come società, diciamo, in Inghilterra, ma fondamentalmente lei ha la forte operatività è in Germania, e in Germania praticamente è diventata anche una banca, nel senso che aveva preso la licenza per il banking e quindi aveva fondato Wirecard Bank AG. che è la società che poi alla fine è quella che ha la possibilità di emettere le carte di credito e via dicendo. E che quindi non è quella impossibile bancarotta, è la divisione della Wirecard, quindi anche questo è un aspetto che va chiarito molto attentamente, Crotta, sì, perché sennò qua allora, ci manca pure la dissoluzione esatto. No, è fatto, il problema è che il allora Wirecard è complessa come struttura e questo probabilmente è stato anche proprio uno degli elementi che ha contribuito a fare in modo che si potesse creare questa situazione dove insomma ci sono state diverse responsabilità, però diciamo che la struttura molto complessa ha fatto sì che si potesse creare o meglio nascondere per fino a un certo punto questo buco da 1,9 miliardi. Quindi il problema dove sta? Che Wirecard ha la licenza per operare in alcuni paesi, quindi in particolare in Europa e mi pare anche a Dubai. Poi ci sono altre realtà dove non aveva licenza per operare e quindi subappaltava, se vogliamo, questo tipo di operazione a delle terze parti fidate che risiedevano in particolare in Singapore e nelle Filippine, dove praticamente apriva degli escrow account con cui poteva poi diciamo fare tutte le varie operazioni con i merchant diciamo di quell'area dove non poteva operare direttamente. Dov'è diciamo il problema? Dov'è che si è creato il buco? Che apparentemente diciamo girava, diciamo, dichiaravano di avere un sacco di business con in particolare la parte del sud-est asiatico e che tutti i soldi che derivavano da questi lavori con il sud-est asiatico fossero detenuti in degli escrow account nelle Filippine. È stato un lavoro di cesello di alcuni vostri colleghi diciamo del Financial Times che hanno cominciato verso la fine dell'anno scorso a capire che c'erano delle diciamo anomalie in quanto veniva dichiarato, i conti non tornavano e il famoso follow the money era abbastanza complesso da fare, però insomma sono riuscito a fare un'operazione di questo genere e hanno denunciato per parecchio tempo il fatto che lì potessero esserci delle irregolarità. La prima cosa anomala è stabiliamo che subito la relazione sì. con l'Italia però perché poi il tempo non ne abbiamo moltissimo e quindi è che praticamente tramite Wirecard Bank Wirecard poteva fare anche da emittente di carte di credito del circuito Mastercard, del circuito Visa e quindi SisalPay come conto, come altre realtà possono andare a chiedere il servizio della carta di credito a Wirecard. Ora il problema dove sta? Che nel momento in cui chi emette la carta di credito e quindi soprattutto trattandosi di prepagate, quindi soldi che dovevano essere depositati su un conto dichiara un ammanco di 1,9 miliardi che è praticamente diciamo il revenue di 10 anni di lavoro di quell'azienda, uno dice questi non hanno più una lira, di conseguenza come facciamo a garantire che queste verranno pagate? Da lì l'iniziativa della FCA di bloccare tutti quanti i conti per evitare fughe di altri capitali o altre cose anomale, perché ricordiamo che l'amministratore delegato di Wirecard è stato arrestato, è stato poi rilasciato sotto cauzione perché comunque è una voragine e quindi di conseguenza tutti i conti collegati in qualche modo ai Wirecard sono stati bloccati per approfondire. Quindi, ora, nel frattempo, scusi, aspetti, sì. la interrompo perché dobbiamo dare la linea alla viabilità e sì. poi ritorniamo anche per capire l'effetto italiano. Quindi diciamo c'è un sospetto molto forte di solidità dei conti per quanto riguarda i rapporti con il sud-est asiatico, ma questo ha provocato il blocco che ha messo in difficoltà i possessori di carte, ad esempio SisalPay in Italia o Soldo, perché queste carte sono state bloccate non necessariamente perché la società stesse fallendo, ma per capire come poteva essere la relazione tra il sud-est asiatico e queste garanzie che dovevano essere date da Wirecard su queste carte. Ho compreso bene? Diciamo che non è un sospetto, nel senso che alla fine quando Ernst & Young e KPMG hanno dichiarato di non poter validare il bilancio perché è scattato l'arresto, perché il CEO ha dichiarato potrebbero mancarci dei soldi e alla fine ha dichiarato quei soldi non ci sono, anche perché le banche delle Filippine in cui hanno chiesto conto della presenza di quei soldi hanno detto noi questi signori non li abbiamo mai visti. Okay. Quindi c'è proprio una... Sì, e questo è chiarissimo. Allora ci fermiamo un istante, scusate, sorrido, ma purtroppo queste vicende, come dire, continuano ad accadere e anche con la globalizzazione diventa più facile magari spostarsi in qualche territorio che si immagina più difficile da verificare, ma non è stato così. Traffico. Due di denari. Digital on table, ma mucca la lì, meazza! fino a quando non ci sarà una moneta digitale di Stato, quindi non di un circuito bancario o di una carta di credito, il contante sarà comunque una scelta da privilegiare. Ma sì, torniamo ai sesterzi, ai fiorini, ai talleri, paesi di evasori fiscali che non siamo altro. Allora, volevo leggerti, leggerti qualche messaggio che ieri mi aveva molto colpito andando a curiosare proprio sul sito di SisalPay, dove la società aveva ovviamente raccomandato un po' di pazienza a tutti i clienti perché stavano cercando di rimediare a questa situazione molto problematica appunto del weekend. SisalPay si è subito incaricata di questo piano di copertura economica dei disagi dei propri utenti. I commenti erano, te ne leggo un paio perché qualcuno mi aveva colpito, soprattutto per il fatto che avevo notato come molte persone utilizzassero questa carta SisalPay, che appoggia appunto i suoi servizi su Wirecard, come unico strumento di vita finanziaria. Domattina devo pagare l'hotel, scriveva una persona, non ho un soldo contante perché uso solo la carta, avevo solo quella con me, mi trovo a 500 km da casa e domani mi scade pure la promozione dell'operatore, quindi c'era anche questa, e quindi non ho nessuno da chiamare. Cosa devo fare? Farmi arrestare perché non ho i soldi per tornare a casa? Anche mia moglie non ha i soldi per le sue medicine, cosa dobbiamo fare? E un altro, io sono in attesa della cassa integrazione dopo quasi 3 mesi di lockdown, ieri il mio datore di lavoro mi aveva bonificato i 15 giorni di lavoro di giugno e tutto quello che ho al momento era accreditato appunto proprio su questa carta, quindi anche il compenso percepito dall'azienda questa persona se l'era fatto accreditare su questa carta. Quindi Mauro, capisci che effettivamente per qualcuno il disagio, anche se circoscritto a 2 giorni, è stato enorme. Ma diciamo che mi sembra di cogliere, chiedo su questo il conforto di Marco Crotta, appunto esperto di blockchain per consumerismo, mi sembra di cogliere il fatto che il sistema di sicurezza in qualche modo abbia funzionato. Al netto dei 2 giorni di grande paura di non poter più avere accesso ai propri soldi depositati su queste carte, però poi la questione è rientrata, quindi possiamo diciamo tranquillizzare gli ascoltatori che magari sono in possesso di altri prodotti ma analoghi a questi? Allora, tranquillizzarli sì, ma fino a un certo punto, nel senso che comunque abbiamo 325.000 carte che sono state bloccate e diciamo l'azione che è stata presa inizialmente è di stanziare 20 milioni, però vuol dire che praticamente stiamo mettendo lì 60 euro a carta, quindi sicuramente è un buon inizio, però può essere soltanto un inizio. In realtà nel frattempo sono già arrivate delle comunicazioni da FCA che stanno cominciando a fare gli sblocchi, mi pare però di capire che sono sblocchi relativi al diciamo all'Inghilterra, a noi non è stato ancora chiaro se altre carte diciamo di rispetto ad altri paesi avranno la stessa sorte, si spera di sì. Credo anche che però SisalPay abbia consentito il trasferimento degli importi di esatto, cui i clienti esatto. erano titolari su carte di altro tipo. Esatto, vero? Infatti hanno già cominciato con Banca 5 a diciamo ad avere una nuova carta su cui trasferire i fondi e quindi avere la possibilità dell'operatività. Noi come consumerismo abbiamo fatto una richiesta direttamente intesa a San Paolo in maniera da garantire il più velocemente possibile, perché appunto quando ci sono bollette o altre spese imminenti, altre scadenze immediate, se uno ha solo quel sistema per gestire le proprie finanze è sicuramente una situazione particolarmente difficile. Sul discorso che i sistemi di sicurezza in generale abbiano tenuto, io mi sentirei di dire di no, perché comunque avevamo già nel 2019 un primo audit di KPMG che ha detto noi non capiamo bene questi bilanci dal 2016 al 2018. Davanti a questa realtà diciamo Wirecard si è andata a chiedere la protezione del BaFin, che ha aperto un'inchiesta contro il Financial Times perché dicevano questi stanno facendo aggiotaggio, stanno cercando di giocare al ribasso, e la stessa Ernst & Young quando comunque dovevano fare da revisore alla fine hanno detto noi questo non possiamo firmare questi documenti perché è 3 anni che riceviamo documenti di dubbia origine che potevano anche come dire sospettare che non fossero particolarmente trasparenti come documenti. Quindi in realtà dal punto di vista degli audit e anche poi delle società di revisione, cioè fino all'altro giorno Wirecard sembrava essere fatta d'oro luccicante, quindi in realtà alcuni sistemi di sicurezza post incidente hanno retto per fortuna, ma quelli pre incidente no, perché siamo arrivati appunto ad avere, diciamo che il sistema di vigilanza ha dato un'altra, mi verrebbe da dire, pessima prova di sé, mentre il sistema di sicurezza successivo, però, come dice giustamente lei, Crotta, il sistema di rimedio in caso di incidente, quello lì, no, quello ha funzionato, sta funzionando, insomma. Sì, sì, per fortuna sì, i disagi ci sono parecchi, ma almeno non abbiamo lasciato nessuno in bragagliatela. Crotta, che cosa adesso appunto abbiamo capito che in linea teorica e abbiamo anche chiesto peraltro la disponibilità ai diretti interessati di intervenire in trasmissione, siamo aperti chiaramente ai loro interventi, mi riferisco sia a Sisalpe che a Soldo, questa mattina non è stato possibile avere dei loro interlocutori, ma chiaramente qualora vorranno venirci a raccontare la vicenda dal loro punto di vista, perché effettivamente un po' è stato un danno anche per queste società, se non sicuramente, perché uno potrebbe dire ma a chi cavolo vi rivolgete per erogare poi dei servizi in Italia, perché anche dal loro punto di vista chiaramente un po' uno dice ma non fate controlli, no Crotta? Ma in realtà, ci manca un minuto di tempo, ecco un suggerimento finale anche ai nostri... Io li assolverei Sisalpay, perché in effetti tutti fino a 2 settimane fa dicevano che Wirecard era come dire sacra e il gioiellino del fintech europeo, esatto. Quindi non me la sento di mettere sul piano degli imputati Sisalpay, anzi loro sono parte lesa in questa situazione qua. Diciamo che dal mio punto di vista, da quello che è anche poi la mia formazione lavorando in blockchain, per me la ricetta è sempre quella ed è sempre quella che l'unica che può funzionare, la totale trasparenza, perché solo nel momento in cui c'è totale trasparenza la possibilità di verificare direttamente tutte quante diciamo le anche eventualmente le accuse che vengono fatte, che poi possono essere smantellate nel momento in cui uno effettivamente non ha nulla da nascondere, solo in quel caso lì, a quel punto lì non hai più bisogno di fidarti, perché la fiducia purtroppo porta con sé alcune sgradevoli conseguenze a volta, ma controllando direttamente tutti quanti hanno la possibilità di vedere le cose come stanno. E qua ovviamente il trucco è stato quello di appellarsi al Buffin, avere diciamo il guru interno che doveva essere il genio del fintech che avrebbe fatto chissà che cosa, ma il tutto ovviamente era molto fumoso dietro una serie di paraventi e di conti offshore che voglio dire di scatole, già da soli meccanismi che siamo abituati purtroppo in questi casi sì, a vedere. Allora grazie a Marco Crotta, esperto di blockchain per consumerismo. Cara Debora, preparati perché alle 15 noi abbiamo la tavola rotonda, insomma è quella lì, l'evento online di non Investire Informati. Esatto, grazie a Peter Bescapè, grazie a Luca Cremonese e come sempre a Marco Lombardo. Ci vediamo alle